sei tu non fossi qui, se tu non fossi qui, povero me, sarei una cosa morta, una candela spenta, un uomo inutile. E se tu mi lasciassi davvero, che varrebbe lottare da solo, come pensare ad amare di nuovo, lo potresti tu. Se tu non fossi qui, potrei trovare un'altra, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei nascondermi. Sì, andrei a piangere, chiamandoti. Se tu non fossi qui, accanto a me, con me. Se tu non fossi qui, potrei trovare un'altra, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei nascondermi. Sì, andrei a piangere, chiamandoti. Se tu non fossi qui, accanto a me, con me. Oh, mm-hmm.